La rosa purpurea di Franco D'Assisi. C'è un banchiere nero con il sogno di cambiare il mondo, ma il mondo gliela farà pagare. C'è un uomo invisibile che racconta la sua storia dalla fine dell'Ottocento e torna in chiave horror. C'è un maestro della poesia animata che sbarca su Netflix e una serie TV tratta dalle opere di un pittore, pronta a stupirci su Amazon. E poi c'è un regalo tutto per voi, un film che avete scelto sulla nostra pagina Facebook in questi giorni e che potrete noleggiare gratuitamente entro lunedì. Basta ascoltarci e seguire le istruzioni. C'è tutto questo nella prima puntata di aprile della Rosa Purpurea, la quarta di resistenza cinefila dall'inizio del lockdown imposto dal coronavirus. Giocheremo insieme, come sempre, con i nostri film misteriosi che vi regalano i più bei DVD del momento. Insomma, noi ce la mettiamo tutta per alimentare anche a casa la vostra fame di buon cinema. Cominciamo dunque con un film disponibile sulla piattaforma di Apple TV, Samuel Jackson, Cole Meany, Nicholas Hoult nel cast, insieme al protagonista Anthony Mackie, il Falcon di Avengers, è The Banker. So, what's your plan, Mr. Garrett? How would you like to buy a bank? What the hell do we know about banking? Owning a bank is like owning the other side of the real estate business. There's a few complexities you just left out. Like what? Oh, I'm sorry. Did I not wake up black this morning? Because I'm pretty sure I did. Yep, still black. Washington, 1965. Bernard Garrett sta per deporre come testimone davanti a una corte federale. La sua memoria corre a quando era bambino, negli anni 30, e da lustrascarpe rubava i segreti dei ricchi uomini d'affari che poi gli mollavano un nichelino e gli dicevano «good job». Bernard segnava su un taccuino formule economiche, moltiplicatori di soldi, rapporti fra investimenti e guadagni. Bernard voleva portare lui, la sua storia, la sua gente, fuori dal ghetto. Lo ritroviamo a Los Angeles nel 1954, improvvisarsi con talento e coraggio, ma contro tutto e tutti, investitore immobiliare. Comprare interi palazzi con i prestiti di una banca per ristrutturarli e affittarli a prezzi più alti, magari a persone di colore, come lui. Missione difficile e rischiosa, soprattutto se hai per soci un maturo playboy appassionato di donne e whisky e un virgulto bianco a far da prestanome. Salutiamo Boris Sollazzo. Buongiorno Franco e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Boris, bella storia quella di The Banker, diretto da George Nolfi al suo terzo film da regista, ma solido sceneggiatore di film come Ocean's 12 o The Bourne Ultimatum. Per fare un buon film di intrattenimento che sia anche impegnato, che abbia una sua efficacia produttiva, stilistica, e uno sguardo deciso e alla fine un'ottima riuscita, spesso servono pochi ingredienti, ottime risorse umane e idee chiarissime. The Banker ha questi ingredienti, un po' come ce l'aveva la storia vera a cui si richiama, cioè quella di due imprenditori neri che decidono di creare un impero immobiliare per sovvertire dall'interno il sistema capitalistico a favore dei neri, perché la loro intuizione era che la segregazione razziale nasceva dalla segregazione economica nei confronti del loro popolo. E ne esce fuori un film molto molto interessante, perché è un film che ha la genialità matematica dei suoi due ispiratori, cioè la capacità di capire che il capitalismo si poteva attaccare da dentro, da una parte, soprattutto il capitalismo bancario e immobiliare, su cui si fonda gran parte della forza degli Stati Uniti, e che la stupidità del razzismo poteva diventare un'opportunità nel momento in cui la si giocava a proprio favore. E questo succedeva perché attraverso un prestanome bianco, Nicholas Hoult, loro gabbavano i loro interlocutori. Spesso si travestivano da autisti, uomini delle pulizie, venivano ritenuti innocui, invece erano sostanzialmente il cavallo di Troia di questa impresa. Il film è scritto benissimo, non è un caso, appunto, hai ricordato il passato da sceneggiatore di grande livello di Nolfi. C'è anche l'evidenza che lui è al terzo film e quindi ha acquisito una maturità anche di scrittura e narrativa molto forte. C'è una sorta di passaggio di eredità tra due icone, una vecchia, tra virgolette, Samuel Jackson, e l'altra Anthony Mackie, che si è preso, diciamo, tutta una quantità di universo afroamericano entrando dalla porta principale nel Marvel Universe, i due hanno una chimica straordinaria, trovano il modo di fare anche un buddy movie con una parte che è thriller economico e dall'altra, non dico commedia, ma comunque sicuramente un film di genere brillante, ne esce fuori un lavoro che è un peccato che non abbia visto le sale. Che ci ha messo 20 anni, non è stato molto fortunato perché ci ha messo 20 anni per uscire, perché questa è la prima sceneggiatura che ha scritto Norfi, l'ha fatta girare ad Hollywood, ma ovviamente proporre dei protagonisti afroamericani che parlano di banche prima della grande scommessa, insomma, davvero, e di banche, di mercato immobiliare, davvero non era un progetto vincente, tant'è vero che lui racconta che gli proponevano al massimo mezzo milione di dollari, che non sarebbe bastato nemmeno ai suoi protagonisti. Il film adesso lo trovate su Apple TV, fa parte di quel contesto narrativo dell'azienda di Cupertino sulle lotte civili e le affronta, insomma, come le affronterebbe Steve Jobs, da un lato, da cui nessuno si aspetterebbe, quello economico. Whole country's talking about how two Negroes managed to buy two banks full of white folks' money and loan it to other Negroes. You're a revolutionary. Questo era The Banker su Apple TV. Noi adesso giochiamo insieme perché, come sempre, abbiamo i nostri film misteriosi da farvi indovinare. Ascoltate la prima traccia. Scegli una porta. Quella lì. No, quella è mia, scegliene un'altra. Che hai nel cervello? Avevi ragione, è la tua porta. Ci sono un sacco di cattivi lì dietro. La regola è semplice: individuate il film, scriveteci il titolo, il vostro nome, cognome e indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, per provare a vincere uno dei DVD che vi aspettano, di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. E fra poco ci trasferiamo su Chili, dove da qualche giorno è disponibile un film la cui uscita in sala era prevista proprio in questi giorni. Si tratta di The Invisible Man. Scopriremo che non è un caso isolato. La rosa purpurea. Adrian è morto. Senti, stai recuperando la tua libertà, ok? Diceva che dovunque fossi andata, mi avrebbe trovata. Si sarebbe avvicinato a me e io non l'avrei visto. Adrian è morto. Non è morto. Ha trovato il modo di diventare invisibile. Bastano queste poche battute dal trailer per capire come l'uomo invisibile, nel romanzo di Herbert George Wells di fine 800, abbia abbracciato infine la sua chiave veramente horror intesa come genere cinematografico. Sì, dagli anni 30 il cinema si era interessato alle vicende di Griffin, lo scienziato che scopre il segreto dell'invisibilità. Memorabili le versioni di John Carpenter con Chevy Chase e di Paul Verhoeven con Kevin Bacon. 90 anni e una dozzina di film dopo, però, è Lee Whannell a caricare tutto il versante orrorifico rimasto sinora sotto traccia e farlo rimbalzare contro un contender che è una donna, Elizabeth Moss, peraltro in un film a basso budget. Com'è andata l'operazione, Boris? A proposito di ricette classiche, di ricette efficaci, di ricette semplici, un reboot di un grande film tratto da una grande idea è forse il viatico migliore per avere successo. E qui parliamo dell'Uomo Invisibile, che appunto è tratto dall'idea geniale di quel mostro di bravura, di talento e anche del rivoluzionario dell'immaginario che era H.G. Wells, e del reboot del film che ormai è datato 1933. E questo aiuta l'Uomo Invisibile ad essere il caso cinematografico che è, perché ovviamente il quasi ottantennale, anzi novantennale, compleanno del suo predecessore lo rende molto lontano dall'immaginario collettivo e consente al regista e agli attori di poter percorrere un terreno vergine, che è quello di un thriller angosciante che parte da una fantascienza che ci ha sempre solleticato, cioè l'idea che si potesse assumere dei poteri grazie alla scienza come quello dell'invisibilità. Il potere dell'invisibilità è sempre stato legato o alla commedia, cioè la possibilità, insomma, di utilizzarla per qualcosa magari di rubrico, di pruriginoso, o riguardo all'ambito dei supereroi. Pochi avevano immaginato l'utilizzo dell'invisibilità nella vita comune, da parte magari di un uomo che ha difficoltà relazionali, che è un uomo di straordinaria intelligenza ma anche profondamente turbato. E noi ci ritroviamo di fronte a una donna che appunto deve combattere questo potere, deve combatterlo, droga il protagonista, anzi l'antagonista, scappa da lui, pensa di aver risolto tutti i problemi della sua vita, ma lui in realtà inscenerà il suo suicidio e diventerà invisibile. E il film è calibrato alla perfezione, perché noi passiamo più o meno una metà delle più di 2 ore del film a cercare di vedere come la donna dimostrerà di non essere pazza, e poi la vedremo in qualche modo diventare pazza, cioè seguire il percorso dell'antagonista per cercare di batterlo, cioè scendere sul suo terreno. Tutto questo con una scrittura molto efficace, con dei protagonisti che davvero hanno una marcia in più, in particolare Elizabeth Moss, e che entrano perfettamente all'interno di un meccanismo che non ha nulla di innovativo, ma che è profondamente efficace. E alla fine, effettivamente, possiamo capire l'entusiasmo sia del pubblico che della critica. Su Rotten Tomatoes ha preso il 90%, il pubblico l'ha premiato nei primi 2 fine settimana, prima che ovviamente poi ci fosse il coronavirus, in Italia infatti arriva solo su Cili, con 29 milioni di dollari il primo fine settimana, 52 il secondo, ne è costati solo 9, quindi potete immaginare che successo incredibile sia stato. E forse l'entusiasmo è anche eccessivo, perché il film è efficace, è solido, ma è un film da 7, non è quel capolavoro, quel cult, quel film che finirà nella top 10 dell'anno, ma ha il pregio di riuscire a mettere tutto al posto giusto, che è una cosa che al cinema non succede molto spesso, e in questo momento ci aiuta veramente a evadere da una situazione che sembra molto più spaventosa di quella vista nel film. Adrian era un sociopatico. Ha detto che non avrei potuto lasciarlo. Controllava il mio aspetto e come mi vestivo. E poi controllava quando uscivo di casa. E alla fine cosa pensavo? Boris, come dicevamo poco fa, questo è uno dei primi film di questa stagione a uscire direttamente in streaming, pur essendo destinato inizialmente alla sala. Una tattica per salvare il salvabile, o le compagnie hanno in mente qualcosa di più strutturale? Franco, da vecchio e ostinato amante della sala, mi auguro veramente che sia un modo per salvare il salvabile e per non intasare i listini che si troveranno nei mesi del ritorno al cinema, con troppi film da smaltire, anche se poi il tema è che in questo momento non solo non si vedono film, ma non si girano neanche, e che quindi questi listini avranno tutto il tempo per avere una via di smaltimento adeguata. Io temo che però le case di distribuzione e le piattaforme online, di streaming online, stiano facendo un intervento un po' più strutturale, cioè stiano utilizzando il coronavirus come una piattaforma di collaudo di un nuovo modo di fruire il cinema, e non possiamo fare a meno di valutarla questa ipotesi, perché se andiamo a vedere il primo paese in cui sono stati riaperti i cinema, ovvero la Cina, dove la pandemia è quasi finita, si sono stati aperti 500 cinema, e di quei 500 cinema hanno fatto numeri davvero esigui. Temo che al di là della pandemia, al di là del riaprire le porte dei cinema, bisognerà anche riempirli, e per riempirli ci si metterà più tempo, e quindi molto probabilmente questo intervento strutturale, che lo vediamo, insomma, il prossimo mese uscirà un film che era molto atteso come The Way Back con Ben Affleck, troverà insomma la sua strada esclusivamente online. È già successo con L'Uomo Invisibile. Mi viene in mente che a livello italiano probabilmente il cambiamento strutturale sarà sul modello di un film di cui abbiamo parlato recentemente, cioè di Ultras, con uscite evento di 3 giorni in sala al cinema, e poi la propria vita online, perché questo consente di farsi distribuire e o produrre dalle piattaforme di streaming, che in questo momento hanno un plafond e un budget estremamente redditizio e che non chiede in cambio incassi, e dall'altra parte però c'è anche l'esperienza in sala. E se d'altronde andiamo a vedere, in Italia tra le esperienze in sala più redditizie troviamo per esempio tutte quelle della Nexo, che sono appunto uscite evento fondate su una targettizzazione molto forte del pubblico. Quindi Per rispondere alla tua domanda, ammetto che temo che sia un intervento strutturale che poi si declinerà in tutti i mercati in maniera diversa. E dunque, l'uomo invisibile, per il momento visibile, su Cili. Grazie a Boris Sollazzo, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema! E giochiamo ancora insieme con la seconda traccia del nostro primo film misterioso di oggi. Lei muore se non la porto via di qui all'istante. Moriamo tutti se lei non ci dice dov'è quell'arma. Veramente moriremo tutti perché io sono il virus. È dentro delle capsule. Devo trovare il modo di estrarle. Roba adrenalinica e muscolare. Se avete indovinato di che film si tratta, La Rosa Purpurea, @radio24.it, titolo, indirizzo. Prima della fine della trasmissione sveleremo tutto. Fra poco invece giocheremo con un altro film. E parliamo ora di un maestro, l'autore che più di tutti ha messo insieme il concetto di poesia con la tecnica dell'animazione. È Hayao Miyazaki, l'uomo che ha inventato Lupin III e Conan, il ragazzo del futuro, Totoro e Ponyo, e ha firmato capolavori come La città incantata e Il castello errante di Howl, di cui conservo qui vicino a me una copia particolarmente preziosa. A gennaio Netflix aveva annunciato di aver raggiunto un accordo con lo studio Ghibli di Miyazaki per portare sulla piattaforma 21 film dello studio. Ora, dopo le ondate di febbraio e marzo, arriva l'ultima tranche, quella di aprile. 7 lungometraggi animati, fra cui alcuni capolavori. Ce ne parla Chiara Pizzimenti. Corro più là, oh, oh, più su, che bello aver le gambe, provo a trottare, stringo di più, faccio ciao ciao. Sosuke! Ritorna subito, Prova a schizzare. Se con quel bimbo saltelli, anche il tuo animo danza. Ponyo! Ponyo? Che bel nome che le è stato dato. Ponyo vuole diventare una bambina! Presto, riportala al mare, richiamerà uno tsunami! Si sente subito la magia fra la musica e le parole di Ponyo sulla scogliera, il penultimo film del giapponese Hayao Miyazaki. Anche questo capolavoro dell'animazione è ora disponibile su Netflix, come gli altri dello studio Ghibli. Sono 21 i film arrivati sulla piattaforma guidati dai capolavori del maestro dell'animazione, due volte premio Oscar. La storia di Ponyo, creatura magica del mare che vuole diventare bambina, sirenetta orientale creata con il lavoro di 70 artisti e migliaia di acquerelli a raccontare un mondo sottomarino con plankton dorato e bolle arcobaleno, la meraviglia della natura minacciata dall'uomo. Che razza di mare, umiliazione! Non è che sia poi così tanto grave. Io penso che siano belli anche così, in questo modo. Ormai è la fine. Senza avere la bellezza non c'è alcuna ragione di vivere. Non è la bellezza esteriore quella che conta, racconta la giovane Sophie, trasformata in vecchietta da un maleficio. Solo il mago Howl, che vive in un castello errante con un demone, la può liberare. Raggiungerlo sarà un viaggio nella riscoperta della bellezza che ha davvero valore e dell'amore reciproco. La magia di Miyazaki non è solo nella sceneggiatura, è in tutto il film, ambientato in un'Europa immaginaria fatta di macchine volanti e creature strampalate. È come un'architettura dell'antica Roma. Beh, ho approfittato dell'attaccamento delle autorità alle parvenze. Un affare simile in guerra è inservibile. Nella progettazione l'importante è il buon gusto. Il buon gusto anticipa le epoche, dopodiché la tecnologia arriva a seguire. Si alza il vento è l'ultimo dei lungometraggi d'animazione di Miyazaki uscito nelle sale. Più di ogni altro racconta i sogni umani attraverso quelli di un giovane ingegnere che vuole costruire aerei, come il progettista Caproni che gli appare nei momenti chiave della sua esistenza. Sono gli anni della Seconda Guerra Mondiale e i caccia servono per il conflitto. Più degli altri film del maestro, pur mantenendo sempre il suo disegno, è adulto, negli argomenti, amore compreso e con un'ironia sempre mista alla dolcezza. Dichiaro! Sbarazzatasi dei 7 tesori e quant'altro, sola e spoglia d'ogni bene, discesa dalla montagna, vi è qui una fanciulla di incantevole aspetto. Ebbene? Dichiaro! Senza neanche un tetto contro pioggia e rugiada, vi è qui un uomo d'ottusa scempiaggine. Se vi andasse bene lo stesso, entrate, per favore. Sia il votarsi degli sposi per l'eternità. E ora linea alla regia. Fra poco facciamo atterrare la nostra capsula di resistenza cinefila sul pianeta delle serie TV, perché c'è una grande novità sulla piattaforma Amazon da poche ore. Si intitola Tales from the Loop ed è ispirata a una serie di dipinti. Ne parliamo fra poco. A Milano si farà lo all'esposizione universale del 2015 si farà. Sentite la gioia della sala, sentite la gioia dei delegati. In Francia e in Irlanda è stata un successo. La vendita al pubblico dei kit in euro è possibile oggi anche in Italia. 8 differenti pezzi, da un centesimo a 2 euro. Tutti i giorni a Radio 24 raccontiamo il mondo, approfondiamo le notizie, documentiamo i fatti, ma non solo. Da oltre 20 anni produciamo trasmissioni culturali e di servizio, trasmettiamo radiodocumentari e generiamo conoscenza. Cosa sono le isole? Lo scopriremo oggi, ma partiamo ovviamente dalle risposte che ci hanno dato i nostri giovani ascoltatori. Poteva in una trasmissione dedicata all'acqua mancare lui? Leonardo da Vinci. Winston Leonard Spencer Churchill nasce il 30 novembre 1874 a Woodstock. In queste settimane di emergenza rinnoviamo il nostro impegno e offriamo il nostro contributo al mondo della scuola. Radio 24 ha creato una sezione online dedicata al proprio archivio, a disposizione degli insegnanti e degli studenti per la didattica a distanza. Podcast di scienze, storia, geografia, letteratura, da scaricare, da ascoltare e condividere, con interviste e approfondimenti di alcuni dei programmi storici di Radio 24. Si parte con le biografie del Novecento, le regioni d'Italia, la scienza dell'acqua. E in più, ogni settimana, su radio24.it, verranno aggiunti nuovi contenuti. Radio 24 per la scuola. La passione si sente. La rosa purpurea. When someone says something's impossible, I prove it's possible. Not everything in life makes sense. Mercer, Ohio, una cittadina come tante della Real America. Paesaggi rurali, gente tranquilla che lavorava. Lì sotto però c'è il Loop, un acceleratore di particelle che rende possibile l'impossibile. È così che gli orizzonti di Mercer si popolano di strane e gigantesche presenze, mostri e automi, come se nei quadri di Hopper irrompessero le creature dei Mutoids. Or if it was a dream. Everyone is connected to the Loop in one way or another. Così ha immaginato il futuro prossimo l'artista svedese Simon Stålenhag e lo ha fissato nei suoi quadri, paesaggi punteggiati da misteriosi enormi macchinari, tristi però in declino, vestigia di un passato dove qualcosa non ha funzionato. Da qui è partito lo sceneggiatore Nathaniel Halpern per scrivere la serie TV che ora sbarca su Amazon, 8 puntate dirette da Mark Romanek, dalla sua One Hour Photo, piccolo capolavoro con il grande Robbie Williams. Nel cast spicca Rebecca Hall, mentre le musiche sono del grande Philip Glass e di Paul Leonard Morgan. Noi ci colleghiamo con Ilaria Feule di Film TV per farci raccontare questa nuova serie. Ilaria. Ci sono serie TV ispirate a film, serie TV ispirate a romanzi e serie TV ispirate ad altre serie TV. Ma Tales from the Loop, su Amazon Prime Video, forse è il primo caso di serie TV ispirata a opere d'arte visive, per la precisione quelle dell'artista svedese Simon Stålenhag, che è l'autore di quadri digitali raffiguranti paesaggi molto suggestivi, dove si stagliano automi abbandonati, reperti tecnologici, oggetti che sembrano parlare di un futuro già passato. Alle sue opere, che sono pubblicate anche in Italia in un volume intitolato semplicemente Loop, si ispira a questa serie originale di Amazon Prime Video, creata da Nathaniel Halpern, uno che proviene dalla lisergica Writer's Room della serie Legion, e si tratta di una serie di fantascienza dai ritmi però molto rarefatti e tanto malinconica. Alla regia del pilota troviamo Mark Romanek, che è un grande autore di videoclip, ma è soprattutto il regista di Non lasciarmi, un altro titolo le cui atmosfere di fantascienza umanista e nostalgica tornano prepotentemente negli episodi di questa serie. Nelle puntate a seguire, tra l'altro, ci sono altri grandi nomi dietro la macchina da presa, tra cui Jodie Foster e il pixariano Andrew Stanton, il regista di Wall-E, un altro titolo che Tales from the Loop sembra evocare. Davanti all'obiettivo non scarseggiano i talenti, perché tra i protagonisti ci sono il fuoriclasse Jonathan Pryce e la splendida Rebecca Hall, e si tratta insomma di una serie molto molto interessante, anche per la natura particolare, che sembra quasi a metà fra narrazione classica e antologica. Infatti vedrete che i personaggi ritornano tra le varie puntate, che però sono fruibili anche in modo quasi del tutto autonomo. Ilaria, raccontaci qualcosa di più del primo episodio, il plot. Ecco, la prima puntata si apre subito con un incipit che ci ricorda alcune famosissime serie di culto, come per esempio I confini della realtà o Alfred Hitchcock presenta. Infatti ci troviamo davanti proprio al buon Jonathan Pryce, qui però in veste di narratore barra presentatore, che con fare un po' sorrino ci disorienta subito dicendo buonasera oppure buongiorno. Un modo anche per anticipare la mancanza di coordinate temporali che caratterizza Tales from the Loop, e ci introduce poi al contenuto. Ci spiega infatti che Loop non è altro che il soprannome di un misterioso centro dove vengono condotti esperimenti di fisica, collocato in una cittadina dell'Ohio, e ci racconta che ogni abitante del paese in qualche modo è collegato a questo loop. Lo è sicuramente la protagonista del primo episodio, che è solo una bimba ma è già alle prese con misteri molto più grandi di lei. Ha una madre che conduce strani esperimenti nel seminterrato e che sparisce di colpo, e tutto l'episodio segue questa ragazzina in un'odissea di cui preferiamo non anticiparvi altro, ma che riserva un grosso colpo di scena. Tales from the Loop, quindi su Amazon Prime Video. Ringraziamo Ilaria Feule, giochiamo di nuovo insieme con la prima traccia del secondo film misterioso di oggi. Stavo sola. No importa lo che te digan, siempre estamos solas. Beh, che dire, è un film che ha fatto davvero epoca a suo modo, seppure molto recente. La Rosa Purpurea @radio24.it è l'indirizzo a cui scrivere il titolo e il vostro indirizzo privato, per accelerare poi le operazioni di spedizione quando potranno finalmente ricominciare. Più tardi vi facciamo ascoltare un'altra traccia. E ora su Disney Plus per una serie davvero particolare, 6 puntate documentarie per raccontarci tutto quello che c'è dietro la magia dei parchi Disney, dall'idea alla creazione, al futuro di un settore che forse meglio di tutti ha incarnato il concetto di Magic della Casa di Topolino. Chiunque sia stato almeno una volta a Disneyland conosce quel sentimento di sospensione che avvolge il visitatore, come se il tempo si fosse fermato, lasciando noi dentro una bolla di infantile felicità e il resto, il brutto del mondo, lì fuori, lontano lontano. Tutto questo è dovuto certo alle attrazioni, ai colori, alle parate dei beniamini di 80 anni di storia disegnata e animata, ma l'ingrediente base è, per l'appunto, la magia. Di questo parla The Imagineering Story, partendo dalle origini, da quando cioè Walt Disney fece all-in sulla costruzione del primo parco, ad Anaheim in California, mettendo a repentaglio la sua creatura stessa, che allora non era forte come ora. Con eccezionali immagini d'archivio, la serie ci porta dentro le scelte, le motivazioni, l'orgoglio, l'appartenenza di chiunque abbia lavorato a questa avventura, per scoprire che nel mondo Disney ieri, oggi e domani si fondono fino a diventare gioia, non parole. Non c'è nessun segreto nel nostro approccio. Andiamo sempre avanti. Non smettiamo di esplorare e sperimentare. Lo chiamiamo Imagineering. Walt stabilì uno standard per gli Imagineers. Uno standard che sorprese le persone e che le portò a pensare: come ci è riuscito Disney? Noi ci facciamo raccontare The Imagineering Story collegandoci con Londra, dove c'è Alessandro De Simone, selezionatore del Festival Cartoons on the Bay. Grazie Alessandro e ben ritrovato alla Rosa Purpurea. Grazie Franco. The Imagineering Story è un documentario davvero molto bello, 6 puntate per raccontare la genesi e l'evoluzione dei parchi a tema targati Disney. Era il grande sogno di Walt, che per realizzarlo si circondò di un manipolo di geniali tecnici e creativi che trasformarono in realtà i suoi desideri. Sembra quasi la canzone di Cenerentola, ma d'altronde parliamo della magia Disney. 6 puntate, come dicevi, dirette e prodotte da Leslie Iwerks, figlia di un Imagineer e nipote di quella Ab Iwerks che di fatto disegnò Topolino. Disney Plus aggiungerà una puntata a settimana fino al 24 aprile, un viaggio entusiasmante durante il quale scoprire come sono nate attrazioni diventate poi celeberrime anche sul grande schermo, come l'Haunted Mansion e i Pirates of the Caribbean. Sono tante le cose che fanno emozionare di The Imagineering Story, a partire dagli straordinari materiali di repertorio che ci fanno entrare direttamente nella quotidianità di una fabbrica dei sogni, senza però dimenticare che business is business e che per costruire un mondo incantato c'è bisogno di pragmatici amministratori. Il primo fu Roy, il fratello di Walt. Dopo di lui arrivò l'epoca dei consigli d'amministrazione. L'immaginazione, per fortuna, poteva continuare ad avere sfogo grazie al team Imagineering, che fece sua la visione del creatore, portandola avanti negli anni. Dalla California a Hong Kong oggi si contano 5 parchi Disney nel mondo. Probabilmente Walt se ne aspettava qualcuno in più dopo 65 anni, ma credo sarebbe comunque soddisfatto di come si è evoluta un'azienda nata da un fallimento quasi un secolo fa. Prima di lasciarci, Alessandro, ci dai le nuove date di Cartoons on the Bay? Ma certo, Franco. Allora, Cartoons on the Bay è in programma dal 3 al 5 dicembre, sempre a Pescara. E speriamo davvero di poter creare anche noi un pizzico di magia dopo questo terribile momento per l'Italia e per il mondo intero. Grazie Alessandro, a presto. Grazie a te, Franco. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori della Rosa Purpurea. Sei stato nominato plenipotenziario straordinario presso la corte dell'Arabia Saudita. È arrivato adesso per radio. Girala come vuoi, sto sempre in mezzo al petrolio. Hai passato la notte su quel divano? E questo? Beh, un tizio mancato di rispetto a Natasha in un nightclub e tu l'hai messo al tappeto. Al tappeto? Chi è Natasha? Non ricordi Natasha? Strano, eri molto clebboso con lei ieri sera. Che vuol dire clebboso? Viene da club, un'associazione basata su un interesse comune. Basta, non voglio sentire nient'altro. Dove siamo? In alto mare. Quando siamo partiti da Hong Kong? 2 ore fa. La clip che avete sentito è quella tratta dalla Contessa di Hong Kong, l'ultimo film diretto da Charlie Chaplin. Perché ve l'abbiamo fatta ascoltare? Perché questo è uno dei film di una rassegna bellissima in streaming su Mubi dal 5 aprile 2020, cioè da questa domenica, frutto di una collaborazione fra la Fondazione Prada e appunto la piattaforma di cinema d'autore Mubi, che propone 30 film a rotazione che cambiano sempre continuamente tutti i giorni. Tra l'altro, in questo periodo Mubi è in offerta, proprio per il lockdown coronavirus, a 1 euro per 3 mesi, quindi ne vale davvero la pena. Ebbene, cosa ha fatto la Fondazione Prada? Ha messo insieme un programma di alcuni film che, come dire, sono stati dei fallimenti nella critica o come esito di pubblico alla loro uscita, ma che poi piano piano sono stati rivalutati fino a diventare dei cult movie. Vi faccio alcuni esempi. Si comincia appunto il 5 aprile con Southland Tales, Così finisce il mondo, del 2016 di Richard Kelly, ma si prosegue con una selezione di titoli per ciascun paese in cui Perfect Failures sarà disponibile. Appunto, per l'Italia ci sarà La Contessa di Hong Kong, che abbiamo già citato, di Charlie Chaplin, Fedora di Billy Wilder, film del 78, o ancora Un divano a New York di Chantal Ackerman, o Showgirls di Paul Verhoeven. Insomma, film di autori di grande rilievo che magari in quel momento sono stati visti in maniera non proprio positiva, ma che negli anni poi hanno riguadagnato le loro posizioni. È molto interessante e singolare questa offerta di Mubi e Fondazione Prada. Noi a questo punto diamo la linea alla viabilità, fra poco torniamo insieme, c'è il gran finale della Rosa Purpurea, ci collegheremo con la casa di Nicola Nocella, l'attore lanciato da Pupi Avati con il figlio più piccolo, ma poi candidato al Davide Donatello per Easy, e gli chiederemo proprio come sta passando questa sua quarantena cinefila. Poi giocheremo ancora insieme e soprattutto, attenzione, restate lì perché proclameremo il nostro film a noleggio gratuito per gli ascoltatori della Rosa Purpurea dopo l'eccezionale successo che ha avuto l'operazione che abbiamo lanciato sulla nostra pagina Facebook con Checchegori Entertainment. Ebbene, vi spiegheremo come poter scaricare questo film e vederlo nel corso del weekend gratuitamente. Fra poco. Dalla Brexit alla Libia, dal terrorismo internazionale alle proteste di Hong Kong, il mondo è sempre più interconnesso. Ciò che accade dall'altra parte del globo ci riguarda sempre e comunque. Per questo ogni giorno racconteremo storie, proporremo analisi, porremo domande e cercheremo insieme a voi le risposte con esperti internazionali, voci dal campo e reporter dalla prima linea. Sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto a Nessun luogo è lontano, dal lunedì al venerdì alle 16, qui su Radio 24. La Rosa Purpurea. Ha telefonato papà. Cosa vuole da me, mamma? Si sposa e ti vuole là come suo testimone. Se noi trasferiamo al ragazzo i pacchetti azionari di... Mi ha detto, sai, lui è il mio figlio più piccolo e quindi è giusto che abbia quello che hanno avuto gli altri. Ma il nuovo presidente lo sa che dagli ultimi accertamenti risulta che abbiamo evaso il fisco per più di 55 milioni di euro? Ma li devi dare tu? No, tu. Ha sposato nostra madre il giorno in cui se n'è andato via. Poi 5 anni fa hanno divorziato, sempre attraverso avvocati. In fondo è come se non ci sia mai stato. La clip con la quale abbiamo aperto la quarta parte della Rosa Purpurea è tratta da Il figlio più piccolo di Pupi Avati, il film con Christian De Sica, Laura Morante, un grande cast, Luca Zingaretti, che ha lanciato Nicola Nocella proprio nel ruolo del titolo, nel ruolo del figlio più piccolo. Nicola Nocella, attore che poi ha preso il suo abbrivio arrivando alla candidatura al Davide Donatello per l'interpretazione straordinaria in Easy, Un viaggio facile facile, e recentemente comparso anche nel film Tolo Tolo di Checco Zalone. Ebbene, siamo in collegamento con Nicola Nocella nella sua abitazione in Puglia, dove sta passando questa quarantena da coronavirus. Ciao Nicola, allora raccontaci un pochino come sta andando questa situazione strana, particolare, come la stai passando in chiave cinefila. Eccomi, allora. Beh, questo è un periodo di quarantena, come dire, del tutto inaspettato, e mi rendo conto di essere un grande fortunato di potermi permettere di poter stare a casa chiuso. Sai, io sono anche abituato a stare, cioè noi purtroppo, o per fortuna per il lavoro che facciamo, siamo anche abituati a stare per molto tempo a casa senza lavorare. Io sono circondato da colleghi che di solito in questo periodo dicono: ah, sto scrivendo, sto facendo, sto... e io di solito non c'ho voglia di fare niente. In questo periodo invece sono molto produttivo, ho appena finito di scrivere quello che dovrebbe essere il mio prossimo film, e con le ultime grandi limature, che ovviamente non posso dire quale sia, però si saprà veramente a presto. Mi piacerebbe dire a presto, però in realtà se non finisce la quarantena potrebbe essere anche fra molto. E quindi sono molto molto produttivo. Io sono sempre stato un sostenitore della frase di Conrad, cioè come faccio a spiegare a mia moglie quando guardo fuori la finestra sto lavorando, però sono anche uno che si è sempre dato moltissimo da fare, quindi sono sempre stato uno che ha guardato tanto o ha letto tanto, pensando: ok, sto studiando, sto comunque lavorando. In questo periodo sto invece facendo tutte quelle cose che probabilmente non farei, cioè io ho la nettissima sensazione che dopo questo periodo forzato a casa, poi dopo avremo tutti l'ipercinetica voglia di fare mille cose, quindi probabilmente insomma è il momento di fare tutte quelle cose che non abbiamo fatto mai, quindi mi sono riguardato, ho visto per bene tutta una serie di cose. Ho visto, ad esempio, ho visto i film dei tre colori, ho visto tutte le trilogie che dovevo guardare per bene, quindi io che non sono mai stato un fan di Star Wars mi sono guardato Star Wars per bene. Purtroppo mi ha fregato Disney Plus, perché appena arrivato Disney Plus io mi sono rifiondato a guardare tutti quanti i supereroi, quindi sto rifacendo tutta l'epopea Marvel partendo dal primo Iron Man, e poi sto guardando tante cose brutte che non ho mai voluto guardare perché brutte o perché non mi piacevano, adesso me le devo guardare, tipo ho visto tutto Evangelion e continuo a pensare che sia orrendo, e so che adesso prenderò i fischi, però continuo a pensarlo. Poi ho visto soprattutto le serie, perché io sono uno che deve iniziare e finire le cose, no? Io non ho mai guardato le serie perché per me devono iniziare e finire, e sono uno proprio predisposto al binge watching, ma che appunto non vuole vivere di binge watching. Per me Irishman è un film, non esiste dividerlo e separarlo per episodi, ma appunto per quanto mi riguarda io l'ho amato, visto tutto insieme. Ecco, per me è un film di 2 ore, 2 ore e mezza. Ho visto, mi sono fatto male, lo so che sembro uno che se la vuole tirare, ma mi sono visto tutto fino alla fine del mondo, che sono 4 ore. Quindi c'è questo, ecco, questo sto guardando inframmezzato da cose che amo molto, che ho amato molto. Oh, io sono uno di quelli, poi insomma ho appena finito di scrivere il mio pezzo per Best Movie, quindi è una cosa che ti sto spoilerando, una cosa che avresti letto fra un paio di settimane. Sono uno di quelli che ad esempio sono un grande fan di Ratman, no? Di Leo Ortolani, di Ratman. Io ho tutti i volumi di Ratman, tutte le ristampe giganti, ho tutto il volume rilegato con gli ultimi 10 numeri, ma non l'ho mai letto, perché se non leggo il finale di Ratman è come se non fosse mai finito, no? Come se quella cosa meravigliosa che è stata Ratman per me, per il mondo anche, ma per la mia vita così importante, non fosse mai realmente finita, se non leggo quei 10 numeri che adesso ho davanti. E quindi ho fatto la stessa cosa con BoJack Horseman, cioè per me BoJack Horseman era la cosa più bella che avessi mai visto in assoluto, forse perché mi piace tanto, mi ci rivedo, forse perché certe cose di BoJack, anche la tendenza autodistruttiva, certe cose le ho viste anche in gente che ho amato follemente, quindi magari gli ero così legato per questo motivo qua. E se non avessi visto la seconda parte della sesta stagione, insomma, mi sembrava come se non la vedo non esiste. Ho preso il coraggio a due mani e l'ho visto. E ho visto veramente una delle cose più belle che abbia mai visto in vita mia. Cioè, l'ultimo episodio di BoJack Horseman io lo riguardo tutti i giorni. Cioè, io tutti i giorni mi riguardo l'ultimo episodio, che è meraviglioso dal titolo. Cioè, è stato bello finché è durato. Che è una cosa che è un po'... che un po' mi piacerebbe si dicesse di me, si dicesse della mia vita, che è quello che sto vivendo io, no? È stato bello finché è durato, e vedere BoJack, cioè quell'episodio finale, io non posso spoilerare nulla ovviamente, però posso solo dirvi questo, e il sesto episodio, scusatemi, l'ultimo episodio della sesta stagione finisce esattamente come era iniziato il primo, ed è, ho i brividi ora a raccontarvelo, ed è veramente un'immersione in quello che è il cinema, in quella che è la drammaturgia, in quelle che sono le battute, in quello che è la ricerca del personaggio, della profondità, della grandiosità, maestosità di un personaggio mediocre. E, se, ora io sto guardando quello, lo riguardo perché è meraviglioso. E poi i vecchi film. Poi su Facebook posto i film grandi che ho visto nella mia vita e che sto rivedendo ora, tipo Uno sceriffo extraterrestre, molto poco extra, molto terrestre. Ho riguardato Bomber, ho soprattutto riguardato Bulldozer, sto riguardando Bud Spencer e Terence Hill. Insomma, mi sto, ripeto, anche con, grazie a quello che è successo con Disney Plus e Netflix, c'è solo una cosa che però voglio dirti, Franco, e che poi insomma ci tengo, no? È un pensiero che ho da ormai 10 giorni. Il pubblico si sta abituando a stare a casa, a vedere Netflix, a vedere Amazon Prime, a vedere tutte le piattaforme, adesso ne è uscita una nuova, come dicevamo, tutte le piattaforme che ti permettono di vedere contenuti a casa. Ho molta paura per quello che succederà dopo. Bisognerà costringere, convincere più che costringere il pubblico a tornare in sala. Bisognerà dirgli, so che ormai vi siete abituati a questo, vi dobbiamo staccare da questa cosa, perché il coronavirus ha fatto vincere la battaglia alle piattaforme di streaming adesso, la battaglia che aveva con la sala. Io sono ancora uno che tifa per la sala tantissimo e capisco però che questa contingenza ci costringa a far vincere adesso questa battaglia, però vorrei che la sala fosse come il generale Inverno, che perdesse tutte le battaglie ma che vincesse la guerra, e quindi non vedo l'ora di poter tornare al cinema. Nel frattempo fruisco del cinema in TV, che è sempre e resterà per sempre una cosa diversa. Grazie Nicola Locella, guarda, sposo in pieno ovviamente le tue parole, tutti i nostri ascoltatori sanno che qui noi non cediamo, la sala l'aspettiamo, torneremo a ripopolarla e sarà lunga sicuramente far riprendere fiducia alla gente, spiegargli che si può tornare in sala, noi ci metteremo il tempo che serve ma torneremo nelle sale, perché quello è il cinema, quello e non altro, il resto ci aiuta, ci fa piacere, lo guardiamo con simpatia. Ci fa anche molto molto divertire, ma come hai detto tu giustamente, è pur sempre e rimarrà sempre un'altra cosa. A questo punto torniamo a giocare insieme con l'ultima traccia del nostro secondo film misterioso. Mire come ve sta. Come sta? Sta bien. Te gusta, Cleo? Está bonita. ¿En cuánto me la va a dejar? No, pero con descuento de cliente antiguo. Ay, déjeme ir a preguntar a la patrona, ahorita vengo. Traccia in lingua originale, perché questo film che ha fatto davvero epoca, anche se in così breve tempo, è uscito anche in Italia solo in lingua originale con i sottotitoli, quindi insomma dovete un po' arrangiarvi, ma secondo me ci sono tutte le atmosfere anche dalla lingua per poter capire di che film si tratta. La Rosa Purpurea, @radio24.it, titolo e vostro indirizzo, fra poco sveliamo tutto e vi facciamo sapere quali sono i film con cui abbiamo giocato oggi. Torniamo indietro invece di 7 giorni fa. Avevamo giocato con Ginger e Fred di Federico Fellini. Perché io stasera parlo, io dico tutto. A 60 milioni di italiani, io dico tutto. Ebbene, i più bravi e i più veloci a indovinarlo sono stati Carmelo Bontempo di Tre Mestieri Etneo e Raffaella De Orsola di Torino. Loro riceveranno il DVD di Ginger e Fred che ci facciamo raccontare in questa nuova uscita da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. 1985, Ginger e Fred, Giulietta Masina, Marcello Mastroianni. È la storia di due ballerini di tip-tap al crepuscolo, portatori di valori ingenuamente ma visceralmente arcaici in un mondo divenuto set televisivo dove trionfa l'emozione facile, i casi umani, la gloria effimera. Un'umanità come merce di scambio perché nella televisione privata il pubblico è il prodotto da vendere alle agenzie pubblicitarie. Profeticamente, nella sua struggente e grottesca narrazione, il film del maestro riminese delineava il farsi mondo delle logiche che governavano le televisioni private. Mustang e CG Entertainment fanno uscire la versione restaurata per il centenario di Fellini con extra importanti come un'intervista sul set fatta da Gideon Bachman, un estratto dell'ultima intervista a Fellini sempre di Gideon Bachman e poi uno speciale la TV di Fellini di Tatti Sanguinetti. Buongiorno a tutti i nostri astronauti dell'Antenna Spaziale Internazionale. È proprio una gran bella giornata, perfetta per tentare di contattare i nostri lontani vicini lassù nella volta celeste. E l'altro nostro game della scorsa settimana era stato Ad Astra con Brad Pitt e Maria Gloria Posani di Bologna e Giorgio Luciano di Genova sono stati i primi a indovinarlo e lo riceveranno in versione Blu-ray. Giulio. Sì, un figlio, Brad Pitt, sulle tracce del padre, Tommy Lee Jones, in missione verso Nettuno via Marte cerca il padre alla ricerca di nuove forme di vita che si è dimenticato di quelle prossime a lui, figlio compreso. Solo James Gray avrebbe potuto farlo, un uomo incapace di sentire reale, una space opera antispettacolare, che comunque quando si concede l'action non ce n'è per nessuno, un viaggio alla ricerca del cuore di tenebra di conradiana memoria. Crea mondi, ma soprattutto fa imparare la responsabilità sulla realtà, sul qui e ora, su una persona, su un sentimento. Ed è proprio qui la bellezza di questo film, nella dismisura, nella grana della pellicola, nella spreco del budget, del capitale, nella grandeur di una sci-fi che finisce per servire invece l'angustia, la piccolezza di un tardo coming of age maschile. Non sarà come vederlo al cinema, ma ora come ora bisogna accontentarsi. Tra gli extra, commento audio del grande regista americano e scene tagliate. Grazie Giulio, ci sentiamo fra 7 giorni. Ciao Franco e alla prossima settimana con i consigli in quarantena di Film TV. E prima di chiudere dobbiamo proclamare il film a noleggio gratuito per gli ascoltatori della Rosa Purpurea scelto proprio da voi sulla nostra pagina Facebook in questa iniziativa che ha avuto uno straordinario successo con Checkigori Entertainment. Mai mi sarei aspettato una così ampia partecipazione. Abbiamo lanciato un paio di giorni fa sulla nostra pagina Facebook un piccolo sondaggio per farvi scegliere un film da noleggiare gratuitamente sulla piattaforma cgdigital.it. Ebbene, vi abbiamo proposto Burning, Selfie, Dio e Donne si chiama Petrunia e L'Ospite e le vostre preferenze sono andate in maniera abbastanza schiacciante a Selfie di Agostino Ferrente, bellissimo film devo dire, tra l'altro ma erano tutti e quattro molto molto belli. Ebbene, tutti i nostri ascoltatori potranno entro lunedì iscriversi alla piattaforma di CG Entertainment, andare alla scheda di Selfie e selezionare il pulsante noleggio digitale. Quando arriverà il momento basterà inserire il codice CG Radio 24, cioè Checkigori Radio 24, CG Radio 24 e da quando si fa play si hanno 48 ore per completare la visione del film gratuitamente. Tutto questo utilizzabile entro la mezzanotte di lunedì, quindi avete tutta la domenica, tutto il lunedì per poter vedere il film, anche stasera stesso, anche da questo momento potete mettervi e cercare lo scaricamento gratuito di questo bel regalo che vi abbiamo fatto insieme a CG Entertainment. Tutto questo che vi ho detto ovviamente lo metteremo fra poco anche sulla nostra pagina Facebook, così potete andare a vedere le istruzioni senza grandi problemi. E noi a questo punto siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, dobbiamo rivelare però il titolo dei due film misteriosi di oggi. Abbiamo giocato con Fast and Furious Hobbs and Shaw e con Roma di Alfonso Cuarón. I vincitori saranno ovviamente annunciati la prossima settimana alla Rosa Purpurea, il programma di resistenza cinefila qui su Radio 24. Grazie, state in casa, state sicuri, noi ci risentiamo fra 7 giorni.